primavera, infiniti cieli sempre blu, per poter sognare tutto ciò che tu vivi in ogni istante d'amore. Dammi con l'arcobaleno i colori teneri d'un fior, lo terrò sul cuore se lo chiedi tu, t'amerò ogni giorno di più. Il sole accenderà là nell'immensità un ardor negli occhi tuoi, la mano stringerà un'altra mano e poi il mondo intero è per noi. Dammi la mia primavera e infiniti cieli sempre blu, dove fiorirà la felicità e per sempre in noi rivivrà. Nell'immensità un ardor negli occhi tuoi, la mano stringerà un'altra mano e poi il mondo intero è per noi. Dammi la mia primavera e infiniti cieli sempre blu, ti darò il mio cuore se lo chiedi tu, t'amerò ogni giorno. Ah!